Ineluttabile modalità del visibile, almeno questo se non altro, il pensiero attraverso i miei occhi. Sono qui per leggere le segnature di tutte le cose, uova di pesce e marame, la marea avanzante, quella scarpa rugginosa, verde moccio, azzurro argento, ruggine, segni colorati, limiti del diafano. Ma lui aggiunge, nei corpi, dunque ne era conscio in quanto corpi prima che in quanto colorati. Come? Battendoci sopra il cranio, si capisce? Vacci piano, calvo egli era milionario, maestro di color che sanno. Limite del diafano in... Perché in? Diafano, adiafano. Se puoi farci passare attraverso le cinque dita della mano è un cancello. Altrimenti è una porta. Chiudi gli occhi e vedrai. Steven chiuse gli occhi per sentire le sue scarpe schiacciar scricchiolanti marami e conchiglie. Ci cammini attraverso comunque. Io lo faccio un passo alla volta. Un brevissimo spazio di tempo attraverso brevissimi tempi di spazio. 5, 6. Il Naha in Andara. Esattamente. E questa è l'ineluttabile modalità dell'udibile. Apri gli occhi. No, Gesù, se cadessi da una roccia che strapiomba sulla sua base, cadessi attraverso il Nebena in Andara, ineluttabilmente. Me la cavo abbastanza bene al buio. La mia spada di frassino mi pende al fianco, con quella picchietta. Loro fanno così. I miei due piedi nelle sue scarpe sono all'estremità delle sue gambe, Nebena in Andar. Suona solida, creata dal maglio di Los Demiurgos. Mi avvio all'eternità, lungo la spiaggia di Sandy Mount. Crash, crack, cric, cric, monete del mare selvaggio, e tutte domini ed isile sa. Vuoi venire a Sandy Mount, cavallena mod? Il ritmo attacca, vedi? Odo, un tetrametro catalettico di giambi in marcia. No, al galoppo, lina mod. Apri gli occhi ora. Lo farò un momento. È tutto scomparso da allora. Se li aprissi, rimanessi per sempre nel nero adiafano. Basta. Voglio vedere se posso vedere. Adesso. Vedo, lì tutto il tempo senza di te e sempre sarà nei secoli dei secoli. Scendevano la scala di Lies Terrace prudentemente, Frauen Zimmer, e giù per il lido declive mollemente, i loro piedi appiattiti affondanti nella sabbia stacciata. Come me, come Algi, scendendo verso la madre nostra possente. Il numero uno dondolava pesantemente la sua borsa da levatrice. L'ombrellaccio dell'altra pungolava la spiaggia. Dal rione delle Liberties, è il loro giorno di libertà. Mrs. Florence McCabe, vedova del Phu Phat McCabe, profondamente rimpianto, di Bright Street. Una sua consorella mi trasse urlante in vita. Creazione dal nulla. Che cos'ha nella borsa? Un aborto con un cordone ombelicale strasciconi, soffocato in ovatta rossastra. I cordoni di tutti sono legati l'uno all'altro nel passato, cavo intrecciato d'ogni carne. Ecco perché i monaci mistici. Volete essere simili a dei? Contemplatevi l'Omphalos. Pronto? Parla Kinch. Mi diedenville, Aleph Alpha 001. Sposa e compagna di Adamo Kadmon, Eva, l'ignuda Eva. Non aveva ombelico. Contempla. Ventre senza macchia, gonfio e grosso, un brocchiere di pergamena tesa. No, bianco acervo di grano, splendido e immortale, eretto da eternità ad eternità. Grembo del peccato. In grembo alla tenebra del peccato fui anch'io, creato, non generato, Da loro, l'uomo con la mia voce e i miei occhi e una donna fantasma con la cenere nell'alito. Si congiunsero e si separarono, fecero il volere dell'accoppiatore. Fin da prima che fosse il tempo, egli mi volle, e né ora né mai può disvolermi. Una lex eterna lo circonda. È questa, dunque, la divina sostanza entro la quale il padre e il figlio sono consustanziali. Dov'è il povero caro Ario che mette alla prova le conclusioni, che si batta tutta la vita contro la contrasmagnifica giudotambanzialità, eresiarca sotto malastella, in un cesso greco dell'ultimo respiro, eutanasia, con la mitra imbrillantata e il pastorale insediato nel suo stallo, vedovo di vedovata cattedra con l'omoforio eretto, col deretano impeciato. Le brezze gli caracollavano intorno, brezze mordenti e frizzanti. Eccole, le onde, i cavalli marini biancocriniti, ribelli al morso, imbrigliati da lucide brezze, corsieri di manana. Non devo dimenticarmi della sua lettera per la stampa. E poi al ship. A mezzogiorno e mezzo. A proposito, andiamoci piano con quei soldi da bravo giovane idiota. Sì, devo. Rallentò il passo. Eccoci. Vado o no da zia Sara? La voce del mio padre consustanziale. Hai più visto ultimamente tuo fratello Steven, l'artista? No? Non sarà mica al Strasbourg Terrace con zia Sally? Non potrebbe trattarsi un po' meglio, eh? E dici un po', Steven, come sta, zio? Sì? Dolentissimo Dio, a che razza di cose mi sono legato col matrimonio. Zaccazzini in soffitta, quel merciaio ambulante ubriacone e suo fratello, il suonatore di cornetta, onoratissimi gondolieri. E Walter con gli occhi torti che dà del signore al padre, niente di meno. Signori, sì signori, no signore. Gesù si dolse, non c'è da stupirsene per Cristo. Suono il campanello asmatico della loro casuccia con le persiane chiuse e aspetto. Mi pigliano per un creditore, sbirciano da un angolino. È Steven, signore. Fallo entrare, fa entrare Steven. Si tira il catenaccio e Walter mi dà il benvenuto. Si credeva fosse qualcun altro. Nell'ampio letto zio Ricci, fra guanciali e coperte, tende di sopra al monticello delle ginocchia un robusto avambraccio. Pulito il petto, si è lavato la metà superiore. Giorno, nipote, mette da parte la tavoletta su cui stende le sue note di spese per gli occhi di Mastro Goff e Mastro Shaplan Tandy, protocollando atti di conciliazione, verbali e un mandato di comparizione. Una cornice di quercia nera sopra la testa calva, il requiescat di Wilde. Il ronzio del suo fischio ingannevole richiama Walter. Cosa c'è, signore? Da bere per Richie e Steven. Dillo a mamma, dov'è? Fa il bagno a Chrissy, signore. Compagnuccia di letto di papà suo, zolletta d'amore. No, zio Richie, chiamami Richie. Al diavolo sta porca idrolitina. Ti butta giù. Veschi, zio Ricci, veramente. Accomodati, oh, per Moserri ti accomodo io. Walter sbircia attorno cercando invano una sedia. Non ha su cui sedersi, signore. Non ha nulla da posarci le mele. Allocco, porta la nostra sedia a Chippendale. Vuoi un boccone di qualcosa? Non venirmi a far lo schizzinoso qua dentro. Una bella fetta di lardo fritto con una ringa? Davvero, no? Tanto meglio. Casa non c'è altro che pillole per il mal di schiena. Allerta! Fischietta battute dell'aria di sortita di Ferrando. Il pezzo più bello, Steven, di tutta l'opera, senti! Il fischio melodioso risuona di nuovo, finemente sfumato, con zampilli dell'aria, pugni stambureggianti sulle ginocchia imbottite. Questa brezza è più dolce. Casa in rovina, la mia, la sua e tutte le altre. Hai detto ai nobiletti di Clongowes che avevi uno zio giudice e un altro generale nell'esercito. Escine fuori, Steven. Non è là la bellezza. E neanche nella vaia stagnante della biblioteca di Marsh, dove leggevi le sbiadite profezie dell'abate Gioacchino. Per chi? Per la marmaglia dalle 100 teste del recinto della cattedrale. Odiatore della sua specie, ne fuggì lontano nella selva della follia, la criniera schiumante alla luna, i bulbi degli occhi stelle, Uin Nem dalle narici equine, gli ovali volti equini, Temple, Mulligan cerbiatto, Campbell volpino, faccia a lama di coltello. Oh, Abba Padre, rabido decano, quale torto infiammò loro le cervella? Paff! Descende, calve, ut ne amplius de calveris. Una coroncina di capelli grigi sul suo capo minacciato. Vedimelo scendere faticosamente fino al primo scalino dell'altare. Descende, brandendo uno stensorio con occhi di basilisco. Giù, zucca pelata. Un coro si palleggia minacce ed echi, ministrando attorno alle corna dell'altare, latino soffiato dal naso dei pretoni che si muovono membruti nelle loro cotte, tonsurati e unti e castrati, grassi della grascia del fior di frumento. E forse nello stesso istante un prete dietro l'angolo ci fa l'elevazione. Din din din! E 2 strade più in giù un altro che lo serra in una pisside. Din din din! E in una cappella laterale un altro che fa la comunione alla faccia sua. Din din din! Giù, su, avanti, indietro. Dan Occam ci aveva pensato, dottore invincibile. In una nebbiosa mattina inglese il demonietto dell'ipostasi gli titillò il cervello. Abbassando l'ostia e inginocchiandosi, sentì nel suo secondo campanello intromettersi il primo campanello del transetto. Lui sta elevando il suo. E alzandosi in piedi sentì. Ora sto elevando io i loro 2 campanelli. Lui si sta inginocchiando. Tinnire in dittongo. Cugino Stephen, non sarai mai un santo. Isola di santi. Eri terribilmente santo, vero? Hai pregato la Santa Vergine di non farti venire il naso rosso. Hai pregato il diavolo in Serpentine Avenue perché la vedova paffutella davanti a te alzasse un po' di più la sottana dalla strada bagnata. Oh sì, certo. Vendi l'anima per questo. Avanti, stracci colorati puntati con spilli addosso a una pelle rossa. Ancora, dimmi, ancora dell'altro. Sull'imperiale del Tran di Oz solo gridando alla pioggia. Donne nude, donne nude. Che ne dici, eh? Che ne dici di che cosa? Perché altro sono state inventate? E quando leggevi 2 pagine per ciascuno di 7 libri ogni sera, eh? Ero giovane. Ti inchinavi a te stesso nello specchio, facendoti avanti a ricevere applausi con grande serietà, un viso notevole. Urrà per il maledetto idiota! Urrà! Nessuno ha visto, non dirlo a nessuno. E quei libri? Che dovevi scrivere con lettere come titoli. Ha letto il suo F? Ah, sì, ma preferisco Q. Certo, ma W è meraviglioso. Ah, sì, W. Ricordi le tue epifanie scritte su verdi fogli ovali, profondamente profonde. Copie da mandarsi in caso di morte a tutte le grandi biblioteche del mondo, Alessandria compresa. Qualcuno le avrebbe lette laggiù. In capo a qualche migliaio di anni, un Maaman Vantara, simile a Pico della Mirandola, sì, assai simile ad una balena. Quando uno legge queste strane pagine di uno dipartito da tempo, uno sente di essere tutt'uno con uno che un dì. La sabbia granita era sparita da sotto i suoi piedi, le sue scarpe calpestarono ancora un umido crosciante amalgama petroso. Taglienti gusci di conchiglie, stridule ghiaie, che percote le ghiaie innumerevoli, legno crivellato dal tarlo marino, perduta armada. Mefitici banchi di sabbia attendevano di risucchiargli le calpestanti suole, esalando tanfate di fogna. Una tasca di alghe riarse da un fuoco marino senza fiamma e un letamaio di ceneri umane. li costeggiò con cauto passo. Una bottiglia di birra si rizzava infitta fino alla cintola nell'impasto grumoso della sabbia. Una sentinella, isola della terribile sete. Cerchi di botte rotti sulla spiaggia. Dalla parte di terra un dedalo di oscure reti scaltre. Ancor più lontano porte posteriori scarabocchiate di gesso. E su un ripiano più alto del litorale una corda per il bucato con due camicie crocifisse. Ringsan. Wigwams di piloti abbronzati e di nostromi. Vuoti gusci umani. Si fermò. Oltrepassato la strada di zia Sara. Allora non ci vado. Pare di no. Nessuno in giro. Si voltò verso nord-est e attraversò il tratto di sabbia più solida verso la Pigeon House. Qui vous amis, dans cette fichue position? C'est le pigeon, Joseph. Patrice, a casa in licenza, lappava latte caldo insieme con me al bar McMahon. Figlio dell'anatra selvatica Kevin Egan di Parigi. Ho per babbo un uccelletto. Egli lappava il dolce lescio con giovane lingua rosata, viso paffuto da coniglietto. Lappare, la pen. Spera di guadagnare i gros lots. Sulla natura delle donne ha letto Michelet, ma mi deve mandare la vie de Jésus di Léo Taxil, prestata al suo amico. Satordan, vous savez, moi. Je suis socialiste. Je ne crois pas à l'existence de Dieu. Faut pas le dire à mon père. Il croit? Mon père, oui. Schluss. Lappa. Il mio cappello da quartiere latino. Dio, non rimane che vestirsi in carattere. Ho bisogno di guanti color pulce. Lei era studente, vero? Di che cosa in nome dell'altro diavolo? PCN. PCN. Sa, physique, chimique et naturelle. Ah. Ti mangiavi i tuoi 4 soldi di Moansivé, pignatte d'Egitto, preso a gomitate dai vetturini ruttanti. Basta che tu dica col tuo tono di voce più naturale. Quando ero a Parigi, Boul'Mich', avevo l'abitudine di... Sì, di tenere in tasca biglietti forati come alibi in caso mi arrestassero per omicidio in qualche posto. Giustizia. La notte del 17 febbraio 1904 l'imputato fu visto da due testimoni. È stato l'altro me stesso. Cappello, cravatta, soprabito, naso. Lui, c'est moi? Pare che lei si sia divertito. Passo altero. Chi cercavi di imitare nel camminare? Non ricordo. Un diseredato. Col vaglia di mamma. 8 scellini. La fragorosa porta dell'ufficio postale sbattutami in faccia dall'usciere. Fame come il mal di denti. Encore 2 minutes. Guarda orologio. Devo avere. Ferme! Cane prezzolato. Farlo a pezzetti sanguinosi con fucili a pallini. Boom! Pezzetti, uomo, spruzzati, muri, tutto, bottoni d'ottone. Pezzetti tutti. Crac, clac, a posto, scattati indietro. Niente di rotto? Oh, tutto bene. Qua la mano. Capito cosa volevo, eh? Oh, tutto bene, una stretta di mano. Oh, questo è tutto, soltanto tutto bene. E dovevi far miracoli, eh? Missionario in Europa sulle orme del focoso colombano. Fiacre scoto sui loro sgabelli in cielo, sbalzati via dai loro boccali, latinvociando tra le gran risate. Euge! Euge! Fingevi di parlar male l'inglese, trascinando la valigia, trapenso un facchino. Attraverso il molo limaccioso a New Haven. Comment? Che po' di bottino ti sei portato via. Le tutù. 5 numeri sbertucciati di pantalon blanc e culotte rouge. Un telegramma francese azzurro, una curiosità da far vedere. Mamma morente, torna a casa, papà. La zia pensa che tu abbia ucciso tua madre. Per questo non vuole. Brindiamo alla zia di Mulligan e ti dirò perché fu lei che tenne sempre in piedi la morale degli anni gan. I suoi piedi marciavano in un subito ritmo altero sui solchi della sabbia, lungo i macigni della gittata di mezzogiorno. Li fissò alteramente, caterva di crani di mammut pietrificati. Luce d'oro sul mare, sulla sabbia, sui macigni. Il sole è là, gli alberi snelli, le case color limone. Parigi, al risveglio scomposta. cruda luce nelle sue strade color limone. Mollica umida di panini, l'assenzio verde rana, il suo incenso mattutino, blandiscono l'aria. Bell'uomo esce dal letto della moglie dell'amante di sua moglie. La massaia col fazzoletto in capo s'affaccenda con un piattino di acido acetico in mano. Da Rodot, Yvonne e Madeleine restaurano la loro bellezza sbattuta, facendo a pezzi coi denti d'oro gli chausson di pasta dolce, le bocche ingiallite dal puce di flan breton. Facce di parigini passano, con piaciuta piacevolezza, arricciolati conquistadores. Sonnolenza meridiana. Kevin Egan arrotola sigarette di polvere da sparo tra le dita sporche d'inchiostro di stampa, sorbendosi la fata verde, come Patrice la bianca. Intorno a noi gente si ingozza forcorando per la strozza fagioli pepati. Un fiotto di vapor di caffè dalla caldaia brunita dell'espresso. La ragazza mi serve al suo cenno di comando. Il latte irlandese. Olandais? Non fromage. Deux Irlandais. Nous. Irlande, vous savez. Ah, oui. Lei credeva che tu volessi un formaggio olandè, il tuo post prandiale. La conosci questa parola? Post prandiale. C'era un tale che conoscevo a Barcellona tempo fa, un tipo curioso, che lo chiamava sempre il suo post prandiale. Bene, slant. Intorno alle tavole dal ripiano di marmo l'intrico di fiati vinosi e gozzi gorgoglianti. Il suo fiato incombe sui nostri piatti macchiati di sugo. La zanna della fata verde gli spunta tra le labbra. D'Irlanda, e d'Alcassiani, di speranze, congiure. È ora di Arthur Griffith. A. E. Pimandro, buon pastore di uomini. Aggiogarmi al suo stesso giogo, i nostri delitti, nostra causa comune. Sei figlio di tuo padre, riconosco la voce. Camicia di fustagno a fiori color sangue. Fa tremare le sue nappe spagnole ai suoi segreti. Monsieur Drummond, famoso giornalista. Drummond, sai come ha chiamato la regina Vittoria? Vecchia strega dai denti gialli, vieille ogresse dai dents jaunes. Maud de Gonne, bella donna. La patrie. Monsieur Millevoye, Félix Faure. Sai com'è morto? Uomini licenziosi. La fréquin, bonne à tout faire. Che stropiccia nudità maschili ai bagni di Uppsala. Moi faire, diceva, tu le messieurs, non questo messieurs, dicevo io. Usanza molto licenziosa. Il bagno è cosa molto personale. Non permetterei a mio fratello, neppure a mio fratello stesso, cosa molto lasciva. Occhi verdi, vi vedo. Zanna, la sento. Gente lasciva. L'esca azzurra brucia mortale tra le mani e poi brucia chiara. Sciolti filamenti di tabacco prendono fuoco. Una fiamma e fumo acre illuminano il nostro angolo. Zigomi ossuti sotto il suo cappello da ribelle irlandese. Come il capogruppo se la svignò, versione autentica. Travestito da sposina, caro mio, velo, fiori d'arancio, filo via sulla strada di Malahide. Proprio così, davvero. Di capi perduti, traditi, le frenetiche fughe, travestimenti, agguantato, sparito, non c'è più. Innamorato respinto. Era un bel ragazzotto a quel tempo, te l'assicuro. Un giorno o l'altro ti farò vedere il ritratto. Lo ero, davvero. Amante, per amor di lei strisciava col colonnello Richard Burke, capo designato del suo clan sotto le mura di Clerkenwell. E accovacciati videro una fiamma di vendetta scaraventarle in alto nella nebbia. Vetro infranto e muratura crollante. Nella Gaia a Parì si nasconde Egan di Parigi, da nessuno ricercato se non da me. Facendo le sue stazioni giornaliere, la misera cassetta di caratteri tipografici, le sue tre taverne, la tana di Montmartre in cui dorme la breve notte, Rue de la Goutte d'Or. Da maschinata dai volti dei trapassati punteggiati di depositi di mosche. Senza amore, senza terra, senza moglie. E lei se ne sta tutta carina e comoduccia senza il suo uomo proscritto, Madame Rue Gillecoeur. Canarino e due caproni pensionanti. Guance di pesca, gonnella zebrata, arzilla come quella di una ragazzina. Respinto ma non disperato. Dica a Pat che mi ha visto, le spiace. Volevo trovare un posto al povero Pat una volta. Monfils, soldato di Francia. Gli ho insegnato a cantare I ragazzi di Kilkenny sono prodi fegatacci. La conosce la vecchia canzone? Gliel'ho insegnata, Patrice. La vecchia Kilkenny, St. Kenis, il castello di Strongbow sul Nord. Fa così. Ho, ho. Lui mi prende in apertendi per la mano. Ho, ho, i ragazzi di Kilkenny. Debole mano consunta sulla mia. Loro hanno dimenticato Kevin Egan. Non è lui che ha dimenticato loro. Ricordandoti, o Sion,